Matria, la rassegna quanto mai estesa non solo nella durata del tempo ma anche nei contenuti, l'avvio per ERT stagione 2021-2022. Direttore Walter Malosti che è qua con noi, come nasce questo progetto? Dunque nasce intorno al recupero di uno spettacolo che doveva chiudere il progetto Atlas of Transitions, che è lingua madre di Lola Arias, realizzato con i cittadini di Bologna, che ha come tema la riproduzione, la maternità, diciamo vista sotto tantissimi aspetti, anche piuttosto problematici, insomma, un affresco della nostra contemporaneità sostanzialmente. E intorno a questo spettacolo abbiamo pensato di unire questo lavoro a degli altri progetti che potessero in qualche modo, non dico spiegare, ma in qualche modo approfondire alcune tematiche presenti nello spettacolo, e quindi abbiamo invitato altri artisti, verranno le Albe con Madre, con la grande Ermanna Montanari, un lavoro che intreccia musica, arte visiva, perché abbiamo Stefano Ricci che disegnerà dal vivo e Rocco Croccato che suonerà dal vivo, e lo faremo al Teatro San Leonardo, anche un po' nostalgicamente, visto che è il teatro di Leo De Bernardinis, che è stato uno dei miei grandi maestri. Poi Sonia Bergamasco ha accettato di lavorare in questo primo studio, per intanto è un reading sul testo, questo romanzo molto curioso di Maria Grazia Calandrone che si chiama Splendi come vita, che ha al centro il tema dell'adozione e dell'identità, ma descritto e raccontato in maniera molto poetica. Poi abbiamo tutta una serie di incontri dedicati a Lola Arias, che è una regista di fama internazionale, ha lavorato in, diciamo, proprio in tutto il mondo, è stata tra le altre cose al Festival di Avignone, al Royal Court di Londra, argentina di nascita. Ci sarà un incontro con lei alla Soffitta, in collaborazione con l'università, la incontreranno Pier Sandra Di Matteo e saranno introdotte dal professor Gerardo Guccini, questo avviene il 29 settembre. Il 3 ottobre invece, con la Cineteca, presso il Cinema Lumière, proietteremo un film di Lola Arias che si chiama Theatre of War, molto curioso, in cui ci sono sei reduci della guerra delle Malvinas o Falkland a seconda del punto di vista, in cui tre reduci inglesi e tre reduci argentini ricordano in qualche modo quella guerra, che fu una guerra atroce, perché appunto ricordava Lola nell'incontro che abbiamo fatto oggi, che in Argentina mandarono tutti ragazzi a combattere questa guerra assurda. Chiuderà poi tutto quanto il progetto un incontro con la notissima filosofa Rosy Braidotti, notissima per gli studi sul postumano, dialogherà con Angela Balzano e Rita Monticelli. Poi abbiamo anche delle connessioni con altre strutture presenti sul territorio, in particolare voglio segnalare il lavoro che è stato fatto con Cheap Street Poster Art e una giovanissima artista che si chiama Rebecca Momoli, che ha creato un intervento di arte pubblica dedicato appunto a Matria. Poi un lavoro che durerà tutto l'anno con la Scuola delle Donne, in collaborazione con la Minarie e con il DOM. Abbiamo delle scrittrici, prima ancora che lei lo vincesse, insomma, una recente vincitrice di un altro premio importante, che è Giulia Caminito, con Maria Grazia Calandrone e Gaia Manzini. Manca anche una citazione che lei ha fatto, Matria Patria. Ah beh sì, Matria dice, è un neologismo che è stato accolto nel 19 nella Treccani. La definizione che dà la Treccani è quella di un luogo fisico e metaforico di eccellenza e di accoglienza, al di là delle appartenenze nazionali, etniche, religiose, sociali e di genere, ed è contrapposto alla patria come realtà storica definita, insomma, appunto da una cultura piuttosto maschile, no? Però per curiosità è un termine che usa già Mario Luzi, questo grandissimo nostro poeta, in una sua poesia già nel 1990, quindi è un termine che si sta affacciando, un termine curioso che appunto invitiamo anche le persone a conoscere. Ne ha parlato anche Primo Levi in un suo intervento di patria, matria, e anche Cacciari. Io la ringrazio tanto, buona giornata direttore. Grazie a lei.